my baby and my baby loves me. È stata anche la sigla del Diversamente Normale, il format che portai in periodo di lockdown più serrato. United Future Organization, il brano che portavo, una rilettura ieri a cena col mio amico fraterno Andrea, che saluto e ringrazio tra l'altro. Ascoltando questo brano e chiacchierando, dico ma questo brano, intanto canticchiavo, il riff, l'editing è da Conga Allegre di Horace Parlan, questo è l'originale. Domani magari porto anche il lavoro degli United Future Organization, il trio nipponico di producer per Talk and Load, UFO. Conga Allegre, Horace Parlan, pianista che insieme a Charles Mingus ha portato note meravigliose appunto tra queste sonorità che davano alla rumba, al samba, un Latin jazz quanto mai dinamico e anche colto. Voltiamo pagina, come ogni libro ha un incipit, anche il Voltiamo pagina ha il suo incipit, è di Silvia Pioggia, la Sissa, che ringrazio per la collaborazione con Radio Città Fujica, arrivata alla 12ª puntata. Il titolo di questo libro è molto bello, intanto però darà l'incipit la stessa Silvia nella sua rubrica chiamata appunto Incipit. A tra poco. Ciao, sono la Sissa e questo è l'Incipit, tutto in 20 righe. Il grande Oscar Wilde diceva: non c'è una seconda occasione per fare una prima buona impressione. E allora, che cos'è la prima pagina di un libro se non la sua prima occasione? Approfondendo la questione dell'incipit, ho scoperto che ci sono vari tipi di incipit. C'è quello descrittivo, quello narrativo, oppure quello in media res. Ci sono vere e proprie teorie sul valore e l'importanza di questa prima parte del romanzo e della sua influenza sul lettore nella scelta appunto di una lettura. È quindi un tema che appassiona sia addetti ai lavori che non. Io sono molto istintiva e mi lascio attrarre dall'estetica del volume e dal fascino dell'autore. E voi invece, in base a che cosa decidete di leggere un libro? Leggerò insieme a voi la prima pagina di alcuni volumi nei quali mi sono imbattuta in libreria e scopriremo insieme se questa teoria delle 20 righe è un metro efficace per le nostre selezioni di lettura. Questa è la prima pagina di Un viaggio chiamato amore, di Sibilla Aleramo e Dino Campana. Egregia Sibilla, vorrei scrivervi, ma non posso. Sono orribilmente annoiato. Conoscete Walt Whitman? Non capisco come facciate a vivere a Firenze e a conoscere certa gente. Non parlo di Cecchi, che stimo, e di Baldini. Studierò un tipo di voi. Bisognerebbe che avesse il vostro ritratto. Guardatevi da San Francesco, una pecorella. E voi? Vi preferisco così. Mi avete riconosciuto per italiano, credo, egregia Sibilla, che non avrò eredi. Anderò col mio famoso fardello dove anderò. Finita la guerra, non esisterò più, ammesso che esista ancora. Vi prego, se potete, di trovarmi qualche acquirente per il mio libro. Lo invierò immediatamente. Vi bacio la mano, Dino Campana. Questo è un po' diverso dal mio solito romanzo. È una raccolta di lettere, un carteggio. Probabilmente due geni, due poeti, due innamorati, due matti, ma matti veri. Come on, my readers! Nel nostro incipit da Sibilla Aleramo e Dino Campana, intellettuale, un viaggio chiamato amore, grande intellettuale Dino Campana, già dall'incipit abbiamo trovato quel linguaggio e quel lessico che a me piace, quindi grazie per la tua selezione Silvia, ci ritroveremo mercoledì prossimo per un altro incipit. Allora sono le 7:57 minuti con Yukiro Fukutomi e il featuring di, non ricordo il nome, lui è Davis, ma non ricordo il nome, è bravo lui, pensate, avete presente quando vi sfugge Victor? Ecco, poi fai due chiacchiere e ti viene in mente. Per Gettanova Compost Record, lui molto bravo, bella voce, grande sonorità nel suo featuring per queste ritmiche smooth bossa. Bene, Yukiro Fukutomi, Victor Davis, ho trovato il nome che mi era sfuggito. Riprenderemo il filo della lettura nel Voltiamo Pagina a breve, ci metteremo in contatto con Silvia Albertazzi, che è nel capoluogo di regione abruzzese, mi pare, ne avremo la certezza a breve, diretta telefonica con Silvia, 333-180-9494, per, lo dirò sempre, arricchire la vostra biblioteca. Io ho portato un libro di una bellezza, beh, di solito sapete, no? La linea editoriale del Breakfast Club Voltiamo Pagina. Ne approfitto per ringraziare calorosamente e consigliare, infatti lo andrete a ritirare proprio in sede di Via Irnerio 27 con la collaborazione dal Voltiamo Pagina a Libreria Ubic Irnerio. Mi raccomando, consiglio assolutamente non solo per ritirare il volume da voi vinto, ma anche per così uno sguardo all'interno della Libreria Ubic, Via Irnerio 27 a Bologna. po' di musica, poi si ritorna, 103.1. Voltiamo pagina, primo febbraio 2023. A tra poco.